Il giorno dopo, contemplando il giardinetto di dietro i vetri della sua finestra, aspettava che le ore passassero. I giorni avevano già la fretta del primo autunno. Il cielo era alto e trasparente, le acacie si spogliavano, i rami dei platani lungo il viale erano nudi. La ragazza si vestì ogni giorno un vestito diverso, voleva cogliere l'ammirazione negli occhi di lui e scese a piedi fino a Firenze nell'odore sfatto della stagione. Vedendola, egli le andò incontro, le baciò la mano e poi la prese sotto braccio. Cominciarono a camminare in certe straduzze solitarie dove le statue sonnecchiavano nelle vetrine degli antiquari tra i damaschi rossi e d'oro. «Sono innamorata», ella pensava. Una sensazione lieve e dolce che non faceva male. Emanuela divorava ogni giornata nell'ansia dell'ora degli incontri. Avrebbe voluto arrivare agli appuntamenti di corsa. Stefano, che sempre camminava tenendo il braccio sotto quello di lei, le lasciava sulla manica il sentore delle sue sigarette ed Emanuela temeva che in casa avvertissero quell'odore inconsueto. Ma erano distratti i suoi, mamma faceva interminabili lavori a maglia, seduta al pallido sole del giardinetto, papà leggeva sempre. Sovente, quando ella andava a Firenze, le incaricava di comprare un libro per lui. «Ecco il libro, papà», e temeva che le chiedesse: «Dove sei stata?» Venuto l'inverno, Emanuele e Stefano andavano a prendere il tè nel cortile coperto di un antico palazzo. Dietro via Tornabuoni, frequentato da vecchie inglesi le quali prendevano il tè leggendo. Nella sala c'era anche una piccola biblioteca, casti, romanzi rilegati in tela rossa. Bisognava parlare sottovoce, se no, da dietro gli occhiali, sguardi minacciosi si svegliavano. Emanuele e Stefano si soffiavano le parole negli orecchi. Mangiavano biscotti salati o paste al cioccolato, mai c'era un'altra coppia come loro. Sotto qualche tavolo delle vecchie inglesi, cani sonnecchiavano. Un giorno, poco dopo che le era arrivata l'appuntamento, lui disse: «Prendiamo un tassì». E lei approvò sorridendo, senza sapere dove sarebbero andati, incuriosita e tuttavia con una punta di incertezza nel fondo dell'anima. Una traversa del viale dei Colli, una stradetta in discesa, pietrosa, il tassì sobbalzava e infine s'arrestò a una porticina. Emanuela scese leggera e guardò attorno volendo apparire disinvolta, ma non sapeva che cosa significava questo né dove fossero. Egli aprì con una chiavetta, maldestro, poi spinse l'uscio e la lasciò passare. Sempre Emanuela sorrideva. Dentro c'era odore di vernice e di chiuso. Pochi mobili, un ampio divano, un grande specchio con la cornice d'oro, nuovo, quasi buio, appena un po' di chiarore passava dalle persiane. Stefano le spalancò e sotto si aprì tutta Firenze, l'Arno rigonfio come una treccia, le case rosse, i ponti che scavalcavano il fiume. Emanuela ebbe un'esclamazione di meraviglia e si affacciò, ma l'interna inquietudine non cessava, non osava dire: «Andiamocene, che siamo venuti a fare qui?» A lungo contemplarono insieme Firenze, zitti, vicini, turbati da quella solitudine. Stefano le carezzava il collo, le spalle, facendole socchiudere gli occhi per la gioia. Lentamente fuori imbruniva. Entrambi rabbrividirono di freddo e allora Stefano richiuse la finestra, strinse Emanuela nelle braccia, a lungo la baciò, poi la prese. Ritornando a Maiano, Emanuela stringeva tra le dita la chiavetta che Stefano le aveva dato lasciandola. «Domani andiamo a prendere il tè al cortile, vuoi? E dopodomani è domenica, potremo mangiare qui. Una colazione fredda, buona, non ti diverte? Sarà un giorno tutto per noi, puoi essere libera». Ella aveva annuito, sempre muta, poi l'aveva baciato a lungo, come grata, prima di uscire fuori. Freddo acuto nella stretta via sassosa, arrivò a casa in ritardo e spossata. A tavola non aveva la forza di parlare. Papà le chiese a un tratto: «E il libro, Emanuela?» E lei guardava attenta nel piatto della minestra senza osare di incontrare gli occhi di lui. Poi disse: «Non l'ho preso, papà». Adesso egli avrebbe almeno domandato: «Che hai fatto? Dove sei stata?» Disse invece: «Domani allora». E lei promise rinfrancata: «Sì, domani». Inverno rigido, Ormai Emanuela e Stefano si trovavano spesso nella casetta del Viale dei Colli e quando Emanuela entrava trovava Stefano che leggeva i giornali o in piedi dietro i vetri della finestra, guardava accendersi i lumi della città. Ella entrava raggiante, si toglieva il cappello e i guanti, andava ad abbracciarlo proprio come se entrasse in casa propria. Mai aveva detto: "Perché abbiamo fatto questo, Stefano?" Era felice. Provava una gioia quasi infantile nel riconoscere l'odore dei capelli di lui, nel ritrovare quel gesto abituale che gli aveva di toccarsi il collo, la gola. Sapeva quanti bottoni ci sono alla divisa e come si fa a sciogliere il nodo della cravatta. Lo aiutava a rimettere i gemelli nei polsini mentre lui le dava piccoli baci sulla nuca china, sui capelli. Le piaceva questa loro intimità segreta, di avere dimestichezza con la vita di lui. Neppure si doleva che Stefano non le avesse mai detto ti amo. A lungo, distesi accanto sul divano, parlavano fumando. Quella era l'ora migliore. Una grande calma posava su di loro, una distesa pace. Parlavano dei voli di Stefano. Quando lui parlava di aeroplani, Emanuela, mutando improvvisamente la voce, gli diceva: "Ho paura". E lui: "Io non ho paura da quando ci sei tu. So che mi aspetti e devo tornare". Una volta fece: "Purché non mi promuovano?" E subito Emanuele esclamò: "Oh, sarei felice!" Ma Stefano taceva. "Non saresti contento?" Emanuela gli chiese. "Se mi promuovono", egli spiegò, "certo mi cambiano destinazione". Tacquero entrambi. Non avevano acceso la lampada. Dalla finestra entrava la luce giallastra di un fanale che solitario ardeva nella viuzza. Nel buio della camera si vedevano ravvivarsi le punte rosse delle sigarette, tornare a spegnersi dopo un attimo. Emanuela trovò per prima la forza di parlare. "Lontano?" chiese. "Non so, lontano o vicino, non so. Ma non posso pensare di andare in una città dove tu non ci sia, Emanuela. Nulla avrebbe più scopo per me, nemmeno il volare." La ragazza pensava: "Se ne va, se ne va. Per questo adesso mi dice che mi ama." Più volte si vide nell'ombra ravvivarsi la punta rossa della sigaretta di lei, si udì un passo nella stradella, due passi, voci alzarsi nel silenzio, tacersi. Stefano fumava guardando sul soffitto proiettarsi a cerchio la luce del fanale. "Ho pensato che prima di questo io e te dovremmo sposarci, se anche tu, come me, naturalmente non puoi fare a meno di tutto ciò." "Sì. Anche io", ella disse, "come te". Stefano le carezzò i capelli a lungo, zitto, poi parlarono d'altro. L'indomani le portò allo Smeraldo ed ella tornò a casa e annunciò: "Sono fidanzata". Pochi giorni dopo Stefano conobbe la casa, il giardinetto, il cipresso. Una settimana ancora non era passata. Emanuela, entrando nella casetta dal viale, trovò buio dentro, una luce ultima sui vetri. Nessuno nella camera. Ella gridò ridendo: "Stefano! No, no, Stefano, ti prego, non mi fare paura". Era nascosto, certo, e sarebbe uscito fuori di soprassalto. "No, Stefano, no!" I suoi gridi rimasero appesi al buio. Accese la lampada, guardò di qua, di là. "Non c'è, davvero, Stefano. Forse è già venuto e ha lasciato un biglietto. Non c'è nulla. Sono appena le 4:30". Senza togliersi i guanti, la pelliccia e il cappello, andò ad accostarsi al termosifone. Si strinse lì per riscaldarsi. Un passo discendeva la strada. "Eccolo, che dirà vedendomi questa pelliccia nuova?" E già sorrideva Emanuela. Ma il passo superò la porta, scese in basso e tacque. Le 5. Ormai aveva letto tutto il giornale che fino a 2 giorni prima aveva dimenticato sul tavolino. Certi momenti, interessata dalla lettura, si dimenticava perfino di stare aspettandolo. Che sia andato al tè del cortile? No, si era detto qui, proprio qui. Sarà stato trattenuto per servizio, adesso arriverà. Aspettava, cercando di pensare ad altro perché il tempo passasse più presto, e invece rimaneva tesa, in ascolto ai rumori della strada. Essendo la camera poco alta sulla via, si udivano i discorsi delle persone che passavano. Nell'appartamento di sopra un pianoforte suonava. C'è ancora chi studia il pianoforte? Quanti anni di studio, da bambina, ore e ore d'inverno. La maestra picchiava con la bacchetta sulle mani intirizzite e doveva soffocare l'impeto di ribellarsi. Attendeva l'ora della lezione con terrore quasi. Se la maestra ritardava di 5 minuti, pensava: oh, che bellezza, non viene più, non viene più! E invece, d'un tratto, squillava il campanello. Quanto tempo è passato? Quanto tempo era che non sentiva studiare il pianoforte? Si sente certe volte in campagna, d'estate, nelle ore pomeridiane. Questo è il valzer triste di Sibelius. Appena torno a casa, apro il pianoforte e mi metto a suonare. Buia, tutta buia la camera. La strada è piombata in una grande pace. Pare ascolti anche lei la musica. Dopo poco anche il pianoforte tacque. Vado via ora. Vado a telefonare. Passa una donna sulla strada, si sentono battere i tacchetti. È con lei una bambina che piange e lei la trascina, si sente, senza neppure badarle. Si chiude un portoncino e il pianto tace. Emanuela uscì. La strada era deserta. Davanti all'uscio chiuso attese un poco prima di avviarsi. E nessuno. Sopra la sua testa il pianoforte aveva ripreso a suonare. Trovò il telefono in un bar a Porta Romana. Gente fumava, beveva. Si udiva l'urtare sordo delle palle del biliardo. Pronto? L'aeroporto? Sì? Vorrei parlare al comandante Mirovic. A chi? Al comandante Mirovic. Al comandante Mirovic? E non si udì più nulla, eppure certo l'aviere era rimasto lì al microfono. Emanuela insisté. Pronto, pronto! E infine dall'altra parte la voce rispose: attenda. Attese molto tempo. La ragazza del bar ogni tanto la guardava, anche gli uomini che sedevano ai tavolini la guardavano. L'aria era densa di fumo, si udivano cozzare le bilie, ridere i giocatori. Nel microfono silenzio. Forse è stata tolta la comunicazione. Le tornava alla mente una frase di Stefano: questi maledetti apparecchi nuovi. Inquieta seguitava a chiedere nel microfono: pronto? Pronto? Qualcuno rispose infine, una voce diversa dalla prima, certo un ufficiale. Chiedeva: chi parla? Voglio parlare al comandante Mirovic. Chi parla? Per la prima volta, ella disse, sperando di ottenere qualche cosa di più, la sua fidanzata. Ma anche l'ufficiale, come l'aviere, tacque. Disse dopo un momento: il comandante è fuori, in volo. In volo? A quest'ora? Sì, ma dove? Non sappiamo, è in volo. Oh, è accaduta una disgrazia, mi dica. Disgrazia? No, no, signorina. Ma lei aveva già riattaccato il ricevitore. Uscì dal bar, cominciava a piovere, le gocciole le cadevano sul viso. Camminò, girò di lì intorno, non c'erano tassì. Che disperazione! Faceva segno a tutti i tassì che passavano. La gente da dentro la guardava, stupita. Non vede la bandierina abbassata? Il freddo le mordeva le caviglie. Come si fa? Come si fa? Pensava, bisogna andare al campo. E infine un tassì vuoto passò e la disse: al campo d'aviazione, presto, più presto che può. L'autista borbottò, si slitta e partì lentamente. Passavano avanti agli occhi di Emanuela case sempre più rare, lampioni, distributori di benzina. Pioveva, pioveva. Il tassì si arrestò a un cancello. E qui. Quando si trovò in presenza dell'ufficiale, Emanuela capì subito che si trattava di cosa grave. Era, lo ricordava perfettamente, alto e bruno, forse di abitudine doveva avere un colorito roseo, ma allora era pallido. Spiegava affrettatamente, diceva che era un volo lungo, molto lungo. Ma la ragazza, mentre lui parlava, scuoteva la testa vieppiù recisamente, e intanto pensava che se fosse stata cosa da nulla, un piccolo incidente, già glielo avrebbero detto. Ormai il povero tenente, alto così, grosso così, pareva un bambino. Non sapeva più che cosa dire. E temendo che fra di loro si formasse il silenzio, seguitava a dare particolari, poi tacque. Allora Emanuela chiese, recisa: dove è caduto? Come se non avesse parlato affatto, come se le sue parole di prima non fossero state udite, l'ufficiale rispose piano: vicino Bologna. Serena, quasi senza soffrire, ella domandò: morto? È grave? Dove sta? All'ospedale di... Lì giunse che era notte profonda. Non una vettura alla stazione, sulla piazzetta un solo lampione infreddolito. Dov'è l'ospedale? Di qui, poi volti a destra, poi a sinistra, su, sul viale, grande. Buio, compatto. Silenzio che le faceva sembrare colpevole il battere delle sue scarpe sul selciato. Temeva che qualcuno si affacciasse alle finestre e lei dovesse scusarsi di essere là, dare spiegazioni. Buio. Ora a destra, a sinistra, a qualche cantonata un lampione. Dagli usci socchiusi delle stalle sfiatava un caldo odore di strame. Sembrava che ombre sgusciassero fuori dei portoncini. Lungo il viale gli alberi si disegnavano in aspetti fantastici e spaventosi, ed ella, quasi dimenticandosi di Stefano, cominciava a temere per sé. Non sentiva più che se stessa, provava la sensazione di essere in un'impresa eroica, e infine apparve il fanale rosso dell'ospedale. Era arrivata e si rassicurò. Non pensava più che Stefano poteva essere morto. Sentì che la sua peripezia notturna era finita. Provò una sicurezza di porto raggiunto. Sarebbe entrata in una stanzetta, avrebbe potuto buttarsi sul letto di Stefano, raccontargli i disagi del viaggio, dirgli tutto quello che aveva fatto per sapere la verità, per giungere fino a lui e l'incubo di quel buio avventuroso. Lunga attesa prima che le venisse aperto, intorno tutto era sepolto nell'oscurità, eppure, ella pensò, tra poco è l'alba. Entrando, chiese con voce dimessa: «Sono venuta per vedere il comandante Mirovic. Non si può fino a quando non l'avranno incassato», rispose l'infermiere. Neppure pensò di aver capito male. Morto. Già finito tutto. La cassa. Pensò a queste cose calmamente. Appena un più vivo battere del cuore, un doloroso grigiore ai polsi nella pelle. Morto. Ed ella lì, ferma, a parlare con l'infermiere. Stefano non poteva più saperlo che era giunta fin lì. Lei, ancora viva. Le balenò un'immagine di quando era bambina a scuola. Un giorno in cui la maestra dovette dire a un'alunna che tornando a casa avrebbe trovato la madre malata. La madre grave, sì, insomma, la madre morta. La ragazzina urlò. I corridoi, l'aula, tutta la scuola si scosse all'urlo. Un secondo urlo più roco e infine il nome. Il nome, un'invocazione straziante, urtava le pareti. Mamma! Mamma! Senza pianto. Poi tacque e crollò in terra svenuta. Così ella avrebbe voluto adesso. Forse un urlo disumano esploderebbe, ma no, no, non cade, resta lì, zitta, senza perdere la conoscenza, vivendo ogni attimo di quell'ora tremenda. Disse: «Vorrei vederlo subito, chiudergli gli occhi. Oh, gli occhi, figlia mia, non ci sono più gli occhi», disse questo con crudele dolcezza. Alle 6 sarebbe potuta entrare, alle 6, che aspettasse qui, in sala. Così Emanuela rimase chiusa nella stanza fredda che odorava di disinfettante. Il pianto la stringeva, ma non riusciva ancora a sciogliersi. Pensava sempre a quella frase dell'infermiera: «Non ci sono più gli occhi». E adesso ricercava gli occhi di Stefano, li rivedeva in ogni particolare, quella girandola gialla nel verde dell'iride, i cigli folti e neri, una piccola cicatrice all'angolo dell'occhio sinistro. «Non è una ferita gloriosa», diceva, «una caduta in accademia». Non ci sono più gli occhi di Stefano. Non poteva dimenticare gli occhi duri che aveva quando disse: «Questi maledetti apparecchi nuovi. Dove sono gli occhi di Stefano?» Soltanto questa domanda torturante nella mente. Forse questo per lei era come piangere, come un singhiozzo. Forse in quella domanda si estenuava. E anche quando fu inginocchiata vicino alla bara e osservava gli occhi vivi degli avieri, rabbrividendo, immaginava Stefano composto là dentro nell'uniforme azzurra, lisciato e pettinato, sì, ma con due vuoti orrendi nelle orbite, due rosse caverne. Dove sono gli occhi di Stefano? Mai pianse. Inginocchiata, seduta sui calcagni, le dita intrecciate in gesto di preghiera, immobile anche lei nel silenzio gelido. Così trascorse il primo mattino, finché ad un tratto oltre la porta si udì un pianto straziato e l'infermiera entrò bisbigliando: «È arrivata la madre!» Era come stare fuori dell'aula a scuola, mentre urlava la ragazzina che ormai era orfana. Dove sta? Dove sta? Emanuela si ritrasse verso il muro vicino alla ghirlanda d'alloro e intanto s'apriva la porta. Figlio! Una forma nera entrò e cadde sulla bara. La ragazza non ne scorse il volto, solo udì quel grido, vide quelle mani tastare il legno, uscì fuori, riprese il viale grande e partì. Restò qualche giorno in letto, malata, una febbre da nulla, una febbre nervosa. Lesse sul giornale che in un volo di prova, per cause imprecisate, un apparecchio dell'aeroporto Luigi Gori era precipitato. Il pilota, comandante Stefano Mirovic, che non aveva potuto usare il paracadute, era deceduto. Niente più di queste due righe. Accanto c'erano i nuovi prezzi del grano. Sotto la notizia dell'arrivo in Italia di Jeanette McDonald. Fu colpita dalla parola deceduto. Stefano era deceduto. Niente più di questo. Un avviso anagrafico. La madre se l'era portato via, a Fiume, a casa. Forse neppure sapeva che non c'erano più gli occhi. Tutto scomparso. Anche il ricordo dell'Arno che insieme avevano guardato scorrere placido, anche la casetta del viale dei Colli, quel buio nel quale si vedevano accendersi le teste rosse delle sigarette, si udivano le loro voci. Nessuno sapeva tutto ciò. Era come se non fosse mai stato. Ella aveva conosciuto poco della vita di lui. La loro era una strana intimità. Quella vera stava per cominciare, ed ecco, Stefano era deceduto. Provava un gusto aspro nel ferirsi con questa verità. Telefonava al campo per sentirsi rispondere: «Non sa, è morto il comandante Mirovic!» E poi riappendeva il ricevitore, per farsi male, come quando le doleva un dente e si accaniva con l'unghia contro la gengiva, ma si tappava gli orecchi quando sulla casa passava il rombo di un aeroplano. Un soffrire opaco e mite che somigliava a una grande stanchezza. Le pesavano addosso le membra, sedeva in giardino, inoperosa, le mani sul grembo, mani fredde come pietre. Altre volte si attaccava alle sbarre del cancello e guardava la gente che passava fuori, andava verso Firenze, seguiva i loro passi finché poteva, come imprigionata e trattenuta da una misteriosa inerzia. Quando cominciò a temere che la cosa terribile potesse essere vera, allora tornò a sentirsi viva. No. Non era possibile. Ormai che Stefano era morto, come poteva ancora tenerla legata a sé? Non doveva avere seguito la loro storia, altrimenti egli non avrebbe potuto andarsene così. Oh, come fare? Come fare? E la cominciò allora a uscire per distrarsi, per convincersi che tutto seguitava, che ogni cosa e anche la sua vita seguiva il suo corso normale. Tuttavia non poteva pensare ad altro. Quel pensiero era lì, fisso. Un chiodo. Neppure più le cose le faceva vedere, neppure un attimo l'abbandonava. Stefano andava mormorando per la strada. Non è possibile. Dentro al suo petto si agitava una grande ribellione. No, no, che dirò a papà e mamma? Le ripugnava il pensiero di avere in lei una creatura viva che accaparrava il suo sangue, la sua vita. Che cresceva in lei a suo dispetto, che era padrona della sua esistenza già prima di nascere. Ogni giorno che passava, quest'essere sordamente maturava in lei. Come potrebbe nascere una figlia, un figlio senza padre, senza nome? Se è proprio sicuro, ella pensava serenamente, c'è sempre un rimedio, mi butto nell'Arno. Adesso aspetto, non devo disperare. Si calmava pensando che alla peggio un giorno avrebbe potuto fare un salto dal ponte. E tutto si sarebbe risolto. Ma non si pensava veramente morta. Soltanto la sua pena sarebbe morta con quel gesto. Le sembrava quasi che se si fosse gettata sarebbe bastato rimanere un po' di tempo tuffata senza respirare e così, come in un sonno, avrebbe lasciato cadere questo peso nel fiume. Ella sarebbe risalita sulla sponda e avrebbe ripreso la sua vita, liberata da quest'incubo, dal timore del figlio, dalla scomparsa di Stefano. Era come se tutto ciò restasse nel fondo del fiume. Niente accaduto. E lei, Emanuela Andori, di nuovo a spasso per le vie di Firenze, sorridente nel fermento della nuova stagione. Non può nascere. Bisogna che faccia il salto. Non c'è altro rimedio. È semplice. Così pensava una sera seduta nella sala da pranzo. La madre lavorava accanto a lei. È deciso. Cercò di rasserenarsi nella certezza della decisione presa e però, pensando che morire significava essere poi chiusa in un mobile lungo e stretto come Stefano, essere dimenticata, sì, dimenticata. Chi vive più per i morti? Chi pensa che sono stati creature vive? Non avere più occhi, non vedere più, non più toccarsi la pelle e sentirsi viva e calda, neppure soffrire la pena di vivere. Allora, udendo nel suo silenzio il ticchettio dei ferri della madre, a un tratto si volse verso di lei e cominciò a piangere, senza dir nulla, a piangere, a singhiozzare finché non la vide accostarsi, chiederle che avesse. Mamma, così vecchia, mamma, così diversa da lei. E quando ne sentì il calore della gonna, le sbarrò gli occhi in faccia e gridò: «Mamma mia, sono rovinata!» 6 anni, già passati 6 anni. E Stefano è ormai uno scheletro nella fossa, proprio solo uno scheletro. Terribile. La divisa sarà flosciata, ci sarà ancora la divisa. È spaventoso tutto ciò. Emanuela non osa guardare attorno. Forse ora entra. Entra e mi parla con una voce di vetro o di metallo. Che voce avranno i morti? Forse era venuto nel tavolino stasera a raccontare com'era stata la fine. C'è un rumore assordante nelle orecchie di Emanuela, come se il motore stesse al piano di sopra o nella camera di Milly, un fracasso assordante. Cadendo, forse è passato sulla casa. L'apparecchio brancola, cade, s'avvita nel cielo, risale, lasciando una scia luminosa, accesa di rosso, rosso come il fanale dell'ospedale. Gettati! Stefano, presto, gettati col paracadute. Ma non è facile come buttarsi giù dal ponte. Il ronzio del motore, le lacera agli orecchi, c'è la voce di papà, la voce di mamma, la voce di Stefania, tante voci, tante persone. Stefano è caduto, bruciato, a pezzi, non ci sono più occhi. Chissà, uno di qua, uno di là. Niente è rimasto di lui, neppure lo smeraldo. Xenia se l'è portato via. Solo l'apparecchio gira nel cielo come una cometa. Ingigantisce, ingigantisce, volteggia attorno alla terra. Tutti sono affacciati e strillano, credono che sia la fine del mondo, scappano, si salvano. Lei sola qui, legata al centro della terra, attaccata qua perché a Stefania non può scappare. Stefania fugge, le compagne fuggono, l'abbandonano, il ronzio si avvicina, la cometa cade, la urta. Si sente precipitare. Precipita! Precipita! Ah!